è un po' calata dall'alto, nel senso che noi come sindacato e tutte le sigle in realtà non sapevamo nulla di questo concorso, quindi a noi tramite voci di corridoio è arrivata questa notizia. Bene fare un concorso a tempo indeterminato, ma sappiamo che il Comune di Bologna ha tantissime precarie che lavorano da anni, da decenni presso i loro servizi, quindi questa decisione di aprire un bando di concorso a tempo indeterminato, un po' questa notizia può farci rincuorare, nel senso che magari si punta poi a chiedere la stabilizzazione, perché la legge, c'è una legge che fino al 31 dicembre del 2026, e parlo dell'articolo 3,5 del decreto legge 44/2023, autorizza le amministrazioni a stabilizzare il personale non dirigenziale, quindi in questo caso noi, figure educative, con almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni. Questo è anche scritto nel piano triennale del fabbisogno del Comune di Bologna, dove appunto prevede la possibilità di stabilizzare fino al 50% dei posti disponibili. Quindi non capiamo come mai il Comune di Bologna, che si vanta di essere un comune progressista, non applichi questa legge. Ripeto, sono persone, educatori, educatrici che lavorano da anni, da decenni. Voi dite che prima di, come dire, indire un nuovo concorso bisognerebbe stabilizzare chi già lavora nei nidi di Bologna. Esatto, chi tiene in piedi i servizi educativi. È questo che noi non riusciamo a capire, non riusciamo anche a capire come mai non ci sia stato un confronto con le parti sindacali. Ripeto, noi abbiamo saputo questa notizia da voci di corridoio e se non avessimo alzato il telefono per chiedere la conferma, noi ci saremmo ritrovati un concorso magari aperto a tutti, ma senza tener conto delle persone che lavorano da decenni e tengono i servizi aperti. Ci potrebbe essere il rischio che le persone che lavorano però con contratti precari poi si vedano spodestate da chi vince il concorso? Esatto, allora io faccio un riferimento storico purtroppo, perché nel 2018 è successo proprio questo. Ci fu un concorso a tempo indeterminato aperto, in quel caso c'era una quota di riserva, ma ci fu una grande manifestazione dopo questo concorso perché furono bocciate con un test a crocette. Quindi la nostra professionalità è stata valutata in base a delle crocette. Molta gente è rimasta fuori dal concorso, compresa io sono una precaria. È dal 2018 che lottiamo per fare in modo che il nostro lavoro venga valorizzato e anche riconosciuto. Io faccio parte di una graduatoria, sono entrata nel Comune di Bologna nel 2012, stiamo parlando adesso che è il 2025, sono ancora precaria, ma è dal 2012 che io lavoro. E nel 2018 io, come tantissime altre ragazze, educatori ed educatrici, sono rimasti fuori da quel concorso. Non vorremmo un altro 2018, non ce lo meritiamo un altro 2018, è questo il punto, e quindi dobbiamo cercare di correre ai ripari, fare in modo che questa legge venga applicata e non si capisca come mai il comune non la tenga in considerazione. Quindi avete intenzione di mobilitarvi? Sì, assolutamente sì, infatti abbiamo già come COBAS e come RSU inviato una richiesta di chiarimento in merito, e se andiamo avanti verso una mobilitazione, non c'è altra strada, insomma, questo è. E le precarie e i precari sono in uno stato veramente di sconforto, perché ci vediamo non riconosciuto il valore che noi portiamo andando tutti i giorni nei servizi educativi e tenendoli aperti e garantendo, insomma, il servizio. C'è una stima di quante persone sono precarie che fanno il vostro lavoro? Di precarie che hanno tanti anni di precariato sopra, saremmo un 300 persone. Siamo tante, ma questo perché? Perché è un susseguirsi di anni di precariato. Iniziamo a stabilizzare chi ha tanti anni di lavoro e quindi di precariato sopra. E questo è il senso, è questo che non si capisce, come mai dobbiamo allungare così tanto il brodo.